220. Cotolette imbottite. Formate delle cotolette di vitella di latte oppure di petti di pollo o di tacchino, tagliate sottili e se tenete a dar loro una forma elegante, tritatele e riunitele dopo schiacciandole. Se trattasi di vitella di latte, basteranno grammi 170 di magro senza osso per ottenerne 6 o 7. Soffriggetele così a nudo nel burro, salatele e mettetele da parte. Fate una balsamella con grammi 70 di farina, 20 di burro e 2 decilitri di latte e appena tolta dal fuoco salatela, gettateci una cucchiaiata di parmigiano e un rosso d'uovo mescolando bene. Quando sarà ghiaccia, spalmate con questa le cotolette da ambedue le parti alla grossezza di uno scudo, pareggiandola con la lama di un coltello da tavola intinto nell'olio. Poi immergetele nell'uovo frullato, panatele e rosolatele friggendole nell'olio o nello strutto. Servitele con spicchi di limone.